fiore del peccato, bocca alata di un respiro sei. Tu mi respingi, mi devi dire va, e non sai che io sì, io sarò pianta carnivora, io delizia. Yeah.